Sorrido alle mie lacrime, perché sogno l'aria libera, la libertà dei sensi, ma sento solo odore di bruciato e le risate di chi giudica. Il dito accusatorio, le grida della rivolta, l'ipocrisia nella mia casa. Sono troppo vecchio per questa coscienza e le colpe sono già state assegnate. Le ferite sono spesse, perdo sangue, ma non è il mio. Sono ancora giovane, la vecchiaia non è la mia. Sono ancora affamato, la vecchiaia non è la mia. Sono troppo vivo per questa esistenza e le colpe sono già state assegnate. Sono troppo vivo per questa esistenza e le colpe sono già state assegnate.